piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Allora, i viaggiatori devono tenere un comportamento adeguato. Va bene, quindi la pulizia e l'igiene sono la prima cosa. Per cui nessuno può viaggiare, uno arriva e si trova quella che tira giù le scarpe e uno si deve sedere lì. Ha pienamente ragione. Oh, da questo la frigo la ragione. Da questo punto di più di questo non le posso dare. Ma è ovvio, ma lo so. E c'è anche la scomodità di dovermi alzare e andare nel vagone nuovo e trasportandomi i bagagli, sottolineo questo, no? Perché la signora ha dovuto fare i suoi porci comodi, ha dovuto fare la maleducata. Perché se la signora mi avesse detto scusi, va bene? Chiaramente lì per lì non sarebbe successo niente. Questi signori sono testimoni, io non li sto chiamando a testimoni perché non voglio intromettere nessuno, va bene? Però se viene la polizia, io chiederò alla polizia di interrogarli per sentire cosa sono andati a fare. Perché non permetto alla signora di dargli di matta perché rivendico il mio diritto. Va bene? Che è il diritto. Se vuole querelare la signora, questa è una cosa sua. La signora non ha avuto neppure il fegato di dare i documenti. Questi sono i miei documenti. La signora non ha manco i suoi documenti. L'ho vista io e l'hanno vista loro. Questo è un caso da manuale di scarpista. Se voi viaggiate in treno, più raramente in aereo, più facile in treno, vi capiterà a volte di incontrare lo scarpista. È un personaggio terribile. Per lui il treno è come il divano di casa sua. Appena arriva si toglie le scarpe e già questo può essere una sorta di mutazione dell'habitat, dell'abitacolo in cui siete, del vagone ferroviario, del pullman di linea, e appoggia i piedi nel sedile di fronte. Ma spesso lo scarpista lo fa proprio con le scarpe ai piedi, arriva e mette i piedi lì sopra, per lui è normale, che gliene frega, non gli importa nulla tanto. Voi arrivate magari, quello è il vostro posto, leva i piedi come se nulla fosse. Lo scarpista molte volte dà fastidio anche all'occhio. Vedo uno scarpista, anche se sto seduto un'altra parte, mi viene a dire, io l'ho detto più volte al controllore, ma quello è uno scarpista. Ci faccia rapporto, non c'è nulla da fare, non c'è una legge. Lo scarpismo non è perseguibile in termini di legge. Però è uno dei motivi di nervosismo per chi viaggia. Avete sentito? La signora ha completamente sbarellato. Beh, noi questa mattina abbiamo fatto una rapida rassegna attraverso le agenzie di stampa degli ultimi mesi dei casi di violenta lite, di baruffa, di alterco, di battibecco durante viaggi in treno, in pullman, ma anche in metropolitana, autobus. Abbiamo capito che in realtà la colpa non è della società che sta cambiando, delle stagioni che non sono più quelle di una volta, del fatto che non abbiamo un governo eletto dai cittadini. No, la colpa è di determinate categorie antropologiche che sono andate a sedimentarsi nel tempo e oggi sparpagliate viaggiano assieme a noi. Questa mattina renderemo un servizio all'umanità e segnaleremo quelle che sono le tipologie dei provocatori di alterco durante il viaggio. Perché si litiga? Perché la gente poi si accoltella? Perché la gente si spara? Perché la gente si strangola? O perché semplicemente si insulta quando viaggia in treno o in autobus per colpa di queste persone? Ecco i 12 tipi umani che, quando viaggiate, sono per voi portatori insani di fastidio e generatori di nevrosi. 1. L'allungatore. Invade lo spazio altrui portando in avanti le gambe, occupando abusivamente con i gomiti i braccioli e riempiendo di giornali i tavolini comuni. 2. L'iperbagagliato. Si presenta a controlli totemici a rimorchio, occupando tutto lo spazio del bagagliaio e facendo tracimare borse nella vostra poltrona. 3. L'affamato. Appena si siede di fronte, estrae famelico da una busta unta panini con frittata, hamburger cipollati, patatine fritte e würstel con la maionese. Divora tutto a più riprese per tutto il viaggio e vi offre anche una coscia di pollo per instaurare complicità. Ecco i primi 6 dei 12 che non abbiamo identificato, potrebbero essere molto di più, abbiamo fatto delle macro categorie di tipi umani che quando viaggiano sono portatori insani di fastidio e generatori di nevrosi. Noi vorremmo semplicemente, col vostro aiuto questa mattina, dare un valore a ciascuno di questi, sapere qual è una sorta di studio di prevalenza, quali sono quelli che normalmente viaggiano di più e creano più dissidio. Quindi questa mattina scientificamente faremo uno studio di prevalenza sul tipo umano che porta come portatore insano di fastidio e generatore di nevrosi. 800 24 0024, Nicola. Buongiorno. raccontare brevemente la mia esperienza, due esperienze. Allora, stavo andando per lavoro a Milano e a un certo punto una persona stava guardando su un tablet una partita di calcio e la sua squadra del cuore, non lo so, ha segnato e questo ha cacciato un urlo che ha veramente... Però io intanto assegno il punteggio. Lei ha citato un iperconnesso, il numero 5, e un urlatore, il numero 4. Esatto. Poi d'altro canto ho visto anche un'altra persona che comunque gli squilla il telefono e ad altissima voce ha raccontato per filo per segno tutto il vagone quello che doveva mangiare a mezzogiorno. E si tratta sempre comunque di un iperconnesso e un urlatore. Poi l'urlatore ha varie sottocategorie, l'urlatore che simula di essere un manager importante, l'urlatore che parla di sue vicende personali, l'urlatore che appunto parla del cibo. Io ho avuto recentemente in un viaggio, la cosa più terribile, un'urlatrice che parlava di malattie e ha descritto con dovizia di particolari tutte le malattie della pelle putrescenti della sua amica, gli interventi emorroidali che sono stati fatti a un'altra amica, insomma... si era sull'ora del desinare, devo dire è stato un brutto viaggio. La ringrazio. Io ho trovato un'ultima cosa, una differenza abissale, poi vi lascio. Sì. Ascolta, no, è importante. Okay. Benissimo, quando ho fatto per lavoro con un giornalista, con un suo collega, la Transiberiana, per un lavoro per le ferrovie russe, ok? È una differenza veramente abissale nella cultura del viaggiatore che utilizza il mezzo di trasporto come il treno per spostarsi da una città all'altra. Gente molto molto educata, specialmente nei paesi dell'est. Quindi se uno semmai fosse possibile, una volta noi abbiamo stilato la categoria antropologica dei disturbatori, proporre una sanzione, mandarli in Siberia sarebbe la risposta. Come ho visto su un treno alla fermata arrivare il controllore, prendere questo ragazzotto che non aveva il biglietto e l'hanno fatto scendere in men che non si dica. Lo sbigliettato, lo sbigliettato in sé è un problema di gestione delle ferrovie o del gestore appunto della tratta, non ci interessa, perché lo sbigliettato in sé può essere anche una persona urbana, tranquilla, anzi si confonde, educatissimo, per non dare nell'occhio. 800240024, aiutateci a indicare i portatori insani di fastidio e generatori di nevrosi in viaggio. 4. L'urlatore. È l'esibizionista vocale, per lui stare al telefono è uno show. Si mette in mostra conversando ad alta voce, quando parla declama, racconta di sé e cerca consenso. Rimane molto deluso quando a fine telefonata non scatta l'applauso degli altri passeggeri. 5. L'iperconnesso. È in perenne digitazione, smanetta sempre con lo smartphone mentre guarda film sul computer portatile e altri dispositivi in modo parossistico. Cerca puntualmente la presa per la batteria tra le vostre gambe. 6. Il russatore. All'inizio sembra avere uno sguardo assorto e quasi poetico mentre osserva il paesaggio fuori dal finestrino. Poi gli occhi si chiudono e comincia a ronfare in modo indecente. Alcuni traboccano con la bavetta. 800240024. Conoscete un allungatore? Avete mai visto un iperbagagliato, un affamato, un urlatore, un iperconnesso, un russatore? Segnalateci. Noi stiamo facendo uno studio di prevalenza, è importante per l'umanità. Giuseppe. Buongiorno. Nicoletti? Sì, l'ascolto con attenzione. Buongiorno. Dunque, telefono da Bologna. Sono un assiduo frequentatore di autobus. Sì. Linea 94. Sì. No, è importante, 20. Insomma, io sono sempre a disagio, poi però tutte le volte non sto zitto. Questo è il momento di dirla. La prendo la palla al balzo. Allora, ho un campionario di risposte, rispostate. Definisca la categoria prima. Quella che mi viene in mente, un tizio, sentivo clic clic dietro di me, mi giro, si stava tagliando le unghie. Fermo. Ma scusi, ma dice, cosa sta facendo? Taglio le unghie. Sia zitto, dice, perché sennò io mi alzo, mi tiro giù i pantaloni e mi masturbo. Ho detto anche le cose così. Aspetti un attimo, questa vede che è importante l'indagine statistica. Lei ha l'ungulato, l'esibizionista ungulato. Guardi, è una categoria rarissima, Ancoletta. L'esibizionista ungulato ha ha necessariamente bisogno di polpastrelli privi di unghie che possano graffiarlo per l'atto masturbatorio. La fase preliminare, preparatoria dell'ostentazione del fallo... No, aspetta, lo dico, sto leggendo il trattato. La fase preparatoria dell'ostentazione del fallo con cui molesta le persone deve essere quella di tagliarsi le unghie, sennò si graffia. Quindi lei l'ha preso proprio nella fase preparatoria. Lui si tagliava le unghie e poi avrebbe cominciato a maneggiarsi. A lei aggiunga dei piedi perché... Feticista, ancora più raro. Ungulatore, masturbatorio, feticista. Non capita mai, è rarissimo. Però lei l'ha incontrato, quindi no, è fortunato. Ma io, come dico, ho un campionario. Ma dica un altro, andiamo avanti. Ma non so, la mattina il ragazzino che dice, ma dico, tieni giù i piedi e le cose. Dice, ma te non hai un caso da fare. Scarpista, scarpista. Un vecchio a quest'ora, invece di dormire, viene a rompere i cigli a me. Sì, ecco. È scarpista veterofobico. Sì, ma c'è poi... Guardi, una cosa ci tenevo però a dire. Quello che succede è che quando io dico una cosa... Sono stato anche aggredito per la gola, quindi... Quando io dico una cosa così, tutti zitti, no? E poi nessuno interviene. Invece i ragazzi giovani, quando sono insieme, allora fanno mucchio, fanno cosa... E se uno si azzarda, lì è finito per il povero vecchietto o quasi vecchietto. No, è successo. Ci sono casi di pestaggio multiplo, bisogna stare molto attenti. La veterofobia... Sì, no, allora, la veterofobia... No, mi faccia parlare, lo devo dire. La veterofobia, unita allo scarpismo, in realtà crea una sorta di meccanismo indotto, di imitazione. Tutti quelli che sono sotto i 15 anni si accaniscono contro la persona che scatena questa cosa. Roberto, grazie Giuseppe. Roberto. Buongiorno, dottor Nicoletti. L'ascolto è molto importante questa mattina. Stiamo facendo un gran servizio all'umanità. Prego, Roberto. Ma io racconto una vicenda che mi è successa quest'estate che vuole far travalicare una cosa che non è solo nazionale, ma è internazionale. Certo. Viaggiavo da Messina e tornavo verso Como, io sono di Como, sì. E ho trovato, l'avete descritto benissimo prima con una parola che mi sfugge in questo momento, ma un personaggio che si era portato seco 8 valigie. L'iperbagagliato, esatto. Sì. La cosa è la numero due, esatto. Intanto la segno nella sua indagine, nell'indagine lo metto. L'ha incontrato un iperbagagliato, come si presentava? Aveva 8 bagagli, li aveva distribuiti, sì, all'interno della carrozza, certo, a suo piacimento. E beh, questa è la... E io mi sono trovato con i miei bagagli a mano a non riuscire neanche a posizionarli, salvo poi tentare maldestramente di spostare il bagaglio un sacchettino di carta, certo, del mio dirimpettaio, dicendo scusi, e lui si è arrabbiato perché ho detto che gli avevo rovinato un dolce, ma questo poi ha portato sì che c'è stato un diverbio fra me e il mio dirimpettaio, che non c'entrava nulla con tutta la serie di bagagli. Quando finalmente ci siamo accorti, eravamo ormai arrivati a Roma, perché avevamo il cambio a Roma, questo personaggio è arrivato, gli ho fatto presente in italiano che non era il suo diritto occupare, sì, tutta quella serie di E come l'ha posti. Risposto? Non mi ha risposto, si è messo a ridere, da lì ho capito che non era italiano e quando sono sceso mi sono avvicinato in maniera molto elegante, gli ho detto che non c'era nulla da ridere, che era un maleducato. Che al suo paese queste cose non si fanno poi, soprattutto. Assolutamente, ma quando si arriva in Italia tutto è permesso. È tutto da una permesso, parte credo che sia colpa nostra, perché siamo delle persone che hanno perso, siamo troppo tolleranti. Me, l'educazione civica, quella che manca. Allora, senta, no, un attimo, che... Roberto, io devo aggiungere un attimo qualche dato scientifico. L'ha incontrato un iperbagagliato che soffrono anche di una sindrome collaterale, che è la sindrome dell'accumulo. Loro non avrebbero bisogno di tutte queste valigie. Le portano proprio per creare scompiglio, per creare disordine, per dare l'esca all'incendio del malessere. Lei infatti ha rischiato di ammalarsi, di stare male, di arrabbiarsi. E molte volte simulano che nel loro bagaglio esistano oggetti fragili, oggetti deteriorabili, per far sentire ancora più in colpa gli altri. Quindi l'iperbagagliato è un soggetto patologico, ma fortemente patologico, con vari problemi. Porta questi bagagli, magari non c'è nulla dentro, carta straccia, vi dice qua c'è una cosa preziosissima, me l'hai rovinata. Questa è la pericolosità dell'iperbagagliato. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora io volevo portare una... semplice testimonianza, ma molto fastidiosa. Certo. Io per motivi di lavoro da decenni viaggio in aereo, tratta nazionale, per cui viaggi da un'ora, un'ora e mezza. Sì. Ecco, benissimo. Mi è capitato, purtroppo con risvolti poco piacevoli, di avere chi sta seduto di fronte a me reclina il sedile piazzandoti i capelli in bocca praticamente a pochi, forse 10 centimetri dalla faccia. Sì. Ho chiamato il personale, premetto che io non rompo le palle, io viaggio, sono abituato, dormo quasi sempre, per cui non mi dà fastidio niente, nei bambini, nei giornali, non mi dà fastidio niente. Una cosa però per me è repulsiva, da conati di vomito, no, sono i capelli in bocca. Allora, le spiego perché diciamo nella tabella mi hanno dato per redigere appunto questa ricerca, è contemplata la figura, soprattutto in aereo, ma ci saremmo arrivati, comunque l'anticipo, è il reclinista abbassa il sedile dell'aereo e induce in realtà a dei problemi fisiologici gravi che si chiama tricofagia. Lei è stato sottoposto a una dose intensa di un trattamento non richiesto, trasformandolo in tricofago. La tricofagia in realtà crea una assuefazione. Lei potrebbe, se viaggia molto e trova molti reclinista davanti che le inducono la tricofagia, avere da qui a qualche tempo un bisogno insanabile di mangiare i capelli, affamato di pelo, e quindi questo le potrebbe creare anche dei problemi sociali. 800 24 00 24, andiamo avanti, vedo che l'indagine ci dà dei risvolti che nemmeno noi sospettavamo. 7. Lo scrutatore. Lui non parla, ma come alzate lo sguardo incontrate il suo occhio scrutatore, che vi guarda, vi studia e probabilmente vi giudica. 8. L'attaccabottoni. Non riesce a stare da solo e vi vuole parlare a tutti i costi. Non avrete scampo. Troverà una scusa e vi trascinerà a parlare di differenze linguistiche dialettali per 3 ore. 9. L'ostentatore di animali o infanti. Arriva circondato da creature fuori controllo che schiamazzano intorno a voi. Lui sorride cercando di coinvolgervi nei loro giochi. 10. Lo scaccolatore. Opera sul suo volto come se fosse nel bagno di casa sua. Scava tunnel nelle narici, estraendo pepite, oppure fa esplodere sulla pelle brufoli eruttivi con una soddisfazione direttamente proporzionale alla loro grandezza. Chiamateci in diretta all'800 24 00 24 e diteci qual è il viaggiatore più molesto per voi. A questa ultima schifosa categoria dello scaccolatore appartiene anche come sottocategoria l'ungulato, quello che col tagliaunghie si tagliava le unghie per poi esibirsi il fallo immondo in un altro tipo di disturbo del viaggiatore, di cui parleremo tra qualche istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Lei stia zitto, perché guardi che è brutto quarto d'ora, eh! Ah! Sono ex volontario! Non mi rompe mica le balle, eh! Un vecchio con le mie galera, guarda, eh! Io sono 71 anni! Vado in galera, ma te ammazzo, eh! No, la signora mi sta rompendo le balle questa donna qua! Cominciamo a parlare te! E dove mi vuoi? Stanca le balle, stanco! Stanca! Io c'ho il diritto di parlare dove mi vuoi e come mi pare! L'iperbagagliato. Si presenta con trolley totemici a rimorchio, occupando tutto lo spazio del bagagliaio e facendo tracimare borse nella vostra poltrona. L'urlatore. È l'esibizionista vocale, per lui stare al telefono è uno show. Si mette in mostra conversando ad alta voce, quando parla declama, racconta di sé e cerca consenso. Rimane molto deluso quando a fine telefonata non scatta l'applauso degli altri passeggeri. L'iperconnesso. È in perenne digitazione, smanetta sempre con lo smartphone mentre guarda film sul computer portatile e altri dispositivi in modo parossistico. Cerca puntualmente la presa per la batteria tra le vostre gambe. Iperbagagliato, urlatore e iperconnesso, nel nostro studio di prevalenza, sono quelli che in questo momento sembrano più responsabili, liti come quella che avete ascoltato, ma ricordo anche gli altri, almeno quelli che noi abbiamo classificati con un primo screening, ma ci sono tantissimi altri, c'è l'allungatore, l'affamato, lo scrutatore, quello che non parla ma vi guarda fisso, sempre di ma che c'ha questo da guardarci fisso, e questa è una molestia. L'attacca bottoni, quello che vuole parlare per forza, vi racconta cose che a voi non interessano. L'ostentatore di animali e infanti. Abbiamo messo queste due categorie in realtà in una categoria perché il principio che li muove è lo stesso. Hanno o un cagnolino, un gattino, un animale da grembo o un bambino. Niente di strano, può andare in treno col cane oppure anche col bambino. No, ma questi li vogliono imporre agli altri. Oppure cominciano, che carino, bellino, guarda com'è dolce, vedi la signora, che bel vestito che ha, vedi il signore, che begli occhiali che ha. finché uno deve andare lì e dire carino, bello, cagnolino, anch'io maschio, femmina, ste cagate. Oppure c'hanno il bambino, stesso sistema. Dia al papà la poesiola, dia la ma cosa vedi fuori? Finché qualcuno gli dà attenzione, che bello questo bambino. Quanti anni hai, bambino? 25. Ecco, così, così, questo è, diciamo, l'humus che si trova nelle nostre ferrovie lungo i pullman. Mi stanno chiamando anche da viaggiatori di pullman. Mi dico che nel pullman che da Lecce arriva a Roma già stanno mangiando cozze patate. Vabbè, questo esiste comunque. È una categoria che l'abbiamo messo. Vabbè, l'affamato. L'affamato, quello che appena si siede, tira fuori il bene di consumo o il prodotto locale, in questo caso cozze e patate. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. L'ascolto. Allora, guardi, io volevo fare una. Ho incontrato una variante molestissima dell'attacca bottoni, che a Roma sì. Poi si chiama l'attacca pippe. Sì. E io lavoravo ad Ancona. No, l'attacca pippe, no, scusi, è l'ungulato esibizionista. Ah, va bene, allora sì, l'attacca a bottoni. Ah, l'attacca a bottoni. Un'esperienza drammatica durante un viaggio tra Ancona e Roma sì. Con il treno. Mi imbattei in questo personaggio sì. Che oltre ad essere un attaccapippe e lì è un attaccabottoni e lì no no bene. Lei può chiamarlo come vuole l'attaccapippa ma aveva no no scusi una... è l'accezione verbale dell'atto masturbatorio in alcune parti bene, d'Italia in questo caso si attacca l'attacca. Con l'atto masturbatorio se lei attaccapippe attacca modo petulante di rivolgersi a una persona anche una ma pippa ma non era tanto quello Nicoletti quanto il fatto che aveva io mi sono fatto tutto il viaggio con una persona che aveva un alito mortale. Eccolo. Allora, se tu hai un alito del genere, certo. E sei consapevole, perché non puoi essere consapevole. Sta zitto, almeno zitto. Può succedere ad ognuno di noi di avere un alito, no, in una giornata in cui uno ha mangiato troppo, eccetera. Ma allora uno sta attento, se deve parlare con una persona si mette a distanza, oppure già. Mangia una mentina, parlava, mangia una mentina. Mangia una mentina. Questo si finge giapponese e si mette una mascherina. Qualsiasi cosa. Io ho sperato tutto il viaggio, che poi mi parlava girato con la il classico attacco allora, a bottoni con la fiatata che gli arriva addosso proprio. Ecco, io ho sperato che si trasformasse in qualche modo in uno di quelli che invece mangia a un certo punto, cioè ho sperato che si ficcasse qualcosa niente. In bocca, io non avevo nulla, non avevo mentire. Non ha mangiato, non ha tirato fuori un panino con qualsiasi odore sarebbe stato meglio. No, guardi, però esiste, guardi, non potremmo trattare tutte le categorie. Si chiama il fiatella. Il fiatella è insieme al flatulente che mi viene segnalato in questo momento su un viaggio Mosca-Bangkok, un russo che si è lasciato andare a intemperanze intestinali per tutto il viaggio, praticamente sono stato immerso per 6 ore. È più raro, soprattutto quelli che usano l'insidiosa silenziosa o silenziosa vestita, non c'è di peggio, poi permane in tutto il vagone per ore e ore. Marco! Buongiorno, sarò breve, guardi. La chiamo dalla provincia di Milano. Io viaggio spesso sui treni perché sono un pendolare anche. Certo. E guardi, la categoria che io detesto è quella del DJ. Quello che anziché ascoltare la musica nelle cuffiette si porta dietro quelle casse wireless odiose, microscopiche, ma che sono di una potenza. Cioè un Bose portatile se lo mette dentro il treno, pensi un po'. Sì, sì, assolutamente. Quello però uno glielo dice, spegnilo, non puoi tenerlo. Quello che faccio spesso, solo che poi bellamente, soprattutto i ragazzini, mi ridono in faccia. E io tra l'altro, essendo anche insegnante, avendo certo. A che fare con le gite di classe, generalmente li sequestro, quindi c'ho una borsa piena di queste casse. E con che autorità le sequestro? Ah, ce l'ha sempre con sé quando torna alla scuola, diciamo. Sì, assolutamente. Quelle sequestrate ogni volta. È veramente terrificante perché io vorrei tanto leggere, ma non riesco. Però mi scusi, professore, se la ferma in un alterco la guardia ferroviaria, la prende per un venditore abusivo di materiale rubato, se c'è la borsa piena di Bose e amplificatori, deve stare attento. No, certo, però comunque sono ragazzini miei, perché io sono insegnante, quindi li porto è roba sua, è il suo serraglio. Esatto, quindi anche per evitare di fare figure di merda con le altre persone. Tranquillo. No, comunque grave, questa cosa è grave, l'ha detta. Molte volte però, professore, sono le cuffie a volume talmente esagerato che fuoriesce la modulazione dal padiglione auricolare. Gino. Salve, buongiorno, chiamo la provincia di Rimini. Cosa sei? La mia esperienza, diciamo... Io anche io viaggio spesso per lavoro, ma un viaggio di vacanza con la mia famiglia a Rimini Milano, ho preso il Freccia Bianca notturno, certo. Non prendo mai, e i miei posti erano occupati da due signore che si erano belle stravaccate, dormivano a sonni felici, e quando sono andato per chiedergli scusate, i posti sarebbero stati prenotati da noi, stiamo riposando. E noi ci siamo fatti tutto il viaggio Rimini-Milano nel corridoio seduti sui seggiolini. Quindi l'ha trovato due allungatrici e due russatrici probabilmente. Russavano. Ho aperto la porta della cuccetta e me ne sono andato via subito. No, scusi, è importante al fine dell'indagine. Russavano? Russavano. Si lasciano andare intemperanze intestinali, anche silenziose? Questo lo potevo dire perché io sono entrato, non c'era un gran profumo, quindi ho preferito viaggiare nel corridoio. No, però è un caso patologico molto grave, capito? Oltre ad avere questo problema, hanno questa sorta di narcolessi che non possono nemmeno essere svegliate, l'intemperanza intestinale e in più probabilmente anche la bromidrosi, che è un'esagerata sudorazione dei piedi. E quanto di peggio, conviene uscire a quel punto. Emanuele, l'ascolto. Buongiorno, io chiamo da Treviso. Sì, da Treviso. Mi dica, cosa accade alle vostre parti? Per chi viaggia? No, io viaggio molto in aereo per lavoro. Sì. E ne ho incontrati tantissimi. Di che tipo? Di che tipologia? Dobbiamo dare i numeri. Gli invadenti, ad esempio, quelli che iniziano ad appoggiare la giacca sui posti vicini, anche se non sono suoi. Questo è un allungatore per bagagliato che però conquista spazio con la giacca e cappotti e non col bagaglio. Oppure il peggio che ho trovato giusto la settimana scorsa è stato un papà indiano, sì, con una bambina che per sette ore, ha pianto e lui se ne fregava. Quindi non era nemmeno uno ostentatore, perché lui non diceva guardate carina la bambina, niente. No, non gli ha dato proprio attenzione. Stava lì, era nel nirvana, era assorto nella sua meditazione, la bambina piangeva. Per sette ore, sì. Sette ore di pianto. Beh, interessante, perché un'urlatrice, la piccola viaggiatrice, potrebbe essere un'urlatrice. E lui niente, lui è un asceta, era lì, e gli asceti viaggiano. A tra poco. Melog. Il russatore. All'inizio sembra avere uno sguardo assorto e quasi poetico mentre osserva il paesaggio fuori dal finestrino. Poi gli occhi si chiudono e comincia a ronfare in modo indecente. Alcuni traboccano con la bavetta. Lo scrutatore. Lui non parla, ma come alzate lo sguardo incontrate il suo occhio scrutatore, che vi guarda, vi studia e probabilmente vi giudica. L'attaccabottoni. Non riesce a stare da solo e vi vuole parlare a tutti i costi. Non avrete scampo. Troverà una scusa e vi trascinerà a parlare di differenze linguistiche dialettali per 3 ore. Vorrei rassicurare il rappresentante dell'Associazione Nazionale della Bulimia Tricofagica, che hanno protestato dicendo scherzate sulla nostra malattia. Scusate, non è che volevo scherzare, segnalavo il caso, che se la persona ti mette la testa in bocca molte volte potrebbe essere indotta una persona a acquisire appunto la tricofagia, che voi ben conoscete, è questa sorta di fame di pelo insaziabile che porta le persone alla disperazione. Milena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare dello scrutatore, nel senso che... Lo scrutatore, sì. Sì, per anni quando prendevo il treno, quando ero studentessa, che andavo a Milano, avevo sempre paura quando entravo nel vagone di trovare, di solito erano uomini, non donne, di trovare sempre il solito che magari con 6-5 posti liberi, perché io ne occupavo uno, arrivava e si metteva esattamente davanti a te e la guardava in silenzio. Allora gli dicevo vabbè, ma si è messo qua, preferiva pazienza. Stare qua, poi comincia e guarda, proprio ti guarda, ti fissa, e uno dice ma questo cosa vuole da me? E almeno uno dice vabbè, facesse un approccio, uno dice vabbè, ma anche quello no, ma lo scrutatore no, ti guarda e non ti perdi di vista, tu non sai più dove mettere lo sguardo, è lo scrutatore, tira i suoi giornali e con la coda dell'occhio continua a vedere che questo continua a guardarti, dici ma io cos'ho di tanto strano, ecco, che questo guardi, fa. Posso dire una cosa, Milena, è indipendente dalle sue forme avvenenti, che sicuramente le avrà, dalla sua gradevolezza muliebre, di cui sicuramente sarà ricca. Sono convinta. Non c'entra nulla. Lei potrebbe essere bellissima, anche lo scrutatore a un certo punto aggancia un bersaglio e non può più togliere lo sguardo, è proprio una patologia. Ma non ho mai capito perché, non riesco a capire che cosa ci Ma non lo so, ci sono dei rapporti pari con le scie chimiche, non so bene, comunque lui è così, è lo scrutatore, è così. No, è stato il mio incubo per anni. No, mi fa piacere la sua telefonata, la ringrazio, perché è una delle tipologie meno osservata. In realtà lo scrutatore è importante perché crea veramente dei problemi. Antonio. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. A me è capitato un po' di tempo fa, non sono un grande viaggiatore, però mi è capitato un po' di tempo fa, un vagone quasi vuoto, eravamo tre o quattro persone, sì. Io stavo leggendo un libro, sì. A un certo punto una coppia più giovane di me, di pochi sedili più in avanti o più indietro, inizia a guardare un film col computer, sì. Però senza mettersi degli auricolari. O delle cuffie. Quindi niente, con l'audio del film a pieno volume. Con l'audio adeguato, cioè. Non c'era nessuno, quindi non c'era neanche un brusio di fondo, di parlato, di altre persone. Lei ricorda che tipo di pellicola si trattasse? Purtroppo no, perché inizialmente ho cercato di non farci caso. Sì, ma almeno il genere, perché è importante. Un film, una commedia, un genere avventuroso, romantico. No, questo purtroppo no, assolutamente non lo ricordo. Quello che ricordo è che a un certo punto non ce l'ho più fatta, sono andato dai ragazzi. Sì. Facendo anche un po' più giovane di me, non molto gentilmente, anche un po' acido, devo abbassa, dire. Detto abbassa. Gli ho chiesto se si rendevano conto di non essere soli nel vagone. E che hanno detto? E loro mi hanno guardato come se fossi un alieno, come se stessero facendo una cosa assolutamente certo, naturale, normale. Chiaro, e sono rimasti così, un po' zitti. Mi hanno fatto notare, anzi, a un certo punto che ero stato un po' acido. No, hanno un deficit della percezione dello spazio attorno a loro, naturalmente. Questi fanno parte comunque degli iperconnessi, però gli iperconnessi con una accezione ancora più grave, che non si rendono nemmeno conto di invadere acusticamente lo spazio intorno a loro. Questa è una cosa. Però comunque fa parte dell'iperconnessione, anche se avessero magari soltanto in locale il file del film, comunque rientra nella categoria dell'iperconnessione. Dario, l'ascolto. Pronto? La sento poco. Sì, parli, l'ascoltiamo bene. Sì, volevo segnalare l'indottrinatore. L'indottrinatore sì. È quello che, o per motivi religiosi, o etici, o politici, cerca a tutti i costi di farti comprendere che tu non hai capito nulla e devi ascoltare lui che ha capito tutto. Quindi è l'attaccabottoni dogmatico. Lui è un attaccabottoni, ma in realtà ha un dogma, ha una verità che deve trasferire. Sì? Non mi ha sentito. Completamente, poveraccio, completamente andato. Comunque esiste l'attaccabottone con questa sorta di accezione dogmatica, che può essere in varie categorie, varie discipline, dogmatismo religioso, dogmatismo politico, parascientifico, oppure relazionale, oppure semplicemente uno che pensa sapere tutto lui. Avanti, abbiamo qualcun altro ancora? Pierpaolo? Buongiorno Nicoletti. Sì, chiudiamo allora, con lei. Io bene, racconto solo dei piedoni, perché io ho fatto un viaggio un anno in treno a Milano e ho visto tutte le misure dei piedi, dal più piccolo al più grande. Allungatori e scarpisti, senza scarpe, esatto, con scarpe. Sempre, ma proprio anche piede nudo, proprio ben in vista, ben lurido. Ah. Questo del piedista è importante, sì. Lo descriva. Il problema è l'indifferenza della gente, è quello il problema più grande. Nessuno ha coraggio, perché sa, molte esatto, volte. Perché io mentre riprendevo questo potrebbe reagire. Male dagli altri. Ma lei come si rivolge? Vede un piedista, facciamo un esempio, vede un piedista a nudo, che sono i peggiori, esatto. D'estate soprattutto, col piedista nudo appoggiato nel sedile davanti e lascia quella sorta di alone acido che rimane la sindone del piede appoggiata su quel sedile. Cosa dice lei? Cortesemente se può abbassare i piedi, che si devono sedere altre persone. E lui sono dice, molto educato, molto gentile. E lui dice, di far capire, dice, ma tu a te che te frega, mica è il tuo posto, rispondi, esatto. Io faccio poi la parte. Era un cinese questo, quindi c'era anche la difficoltà della lingua, però bene o male ha compreso dopo tre riprese allo stesso comunque modo, era un piede penso di piccola taglia, essendo un cinese avrà no, avuto era un 35-36 io l'avrei soprannominato il vecchio Bud Spencer piedone leggero. Ah, un piedone cinese, cinese rarissimo, quindi un piedista rarissimo. Cinese piedone a nudo, esatto. Lo so, le è capitato male. Va bene, sentiamo Mauro. Eccomi qui Gianluca, io non vorrei guastarvi la festa perché ho anche un coming out. Due casi clamorosi. Uno, mi dispiace non l'abbiano ancora citato, è il riservista, ma in senso militare, perché il personaggio ostinatamente tende a difendere fino strenuamente un posto non occupato da nessuno, rammentando che qualcuno dovrebbe raggiungerlo, insomma un... Il riservista, dica l'ultimo, manca un minuto, 30 secondi. Clamoroso defecatore occulto, una volta, anzi più volte, ho trovato spiacenti cadeau sullo spazio dalla grande gradini per salire. Si chiama il lordatore è una categoria innominabile, abbiamo lasciata in ultimo, proprio soltanto accennata, è colui che fa scempio dei gabinetti pubblici, per fortuna ci sono i signori che vanno poi puliscono, sante persone, alla prossima.